Gli stadi ci sono, ma dove sono gli ospedali? Più scuole, più ospedali, meno stadi. Questi sono gli slogan che i giovani marocchini del collettivo digitale sorto sulla piattaforma Discord e poi propagatosi in altri social, il collettivo Generazione Z-212 dal prefisso telefonico internazionale del Marocco, gridano da più di una settimana, quando sono cominciate le manifestazioni in varie località del paese. Ultimamente il governo aveva destinato 890 milioni e restyling di 6 stadi e 469 per un nuovo impianto a Casablanca in vista della Coppa d'Africa di questo anno e i mondiali FIFA del 2030. E le proteste si sono accese, sono state represse in modo deciso e fermo dalla polizia e i giovani hanno quindi indirizzato al re Mohamed VI una lettera pubblica con 8 rivendicazioni ben circoscritte, orientate non solo a riforme sociali ma anche politiche, come la protezione dei diritti costituzionali. E il fatto che la lettera sia indirizzata direttamente al re mostra una rottura tra i giovani manifestanti e le istituzioni politiche tradizionali. È una dichiarazione, appunto, che rappresenta un cambiamento. Se prima si parlava soprattutto di riforme sociali, oggi si parla anche di struttura politica del governo. D'altra parte è stato dichiarato dal collettivo di aver perso fiducia nel Parlamento, nei partiti politici, accusati di essere un ostacolo al progresso nazionale piuttosto che il motore della democrazia. Di questo sviluppo che è molto presente in Marocco, ma evidentemente orientato in una direzione. Si legge nella dichiarazione proprio la volontà di una nuova generazione che rifiuta di rimanere intrappolata nei cicli di corruzione e fallimento e parlano di voler presentare un dossier di prove a sostegno di questa tesi e della corruzione sistematica, abuso di potere e cattiva gestione catastrofica delle politiche economiche e sociali. E ribadiscono: crediamo che il futuro del Marocco dipenda dalla ricostruzione della fiducia tra il popolo e lo Stato, fondata sulla responsabilità, la giustizia sociale e la dignità. Quindi una dichiarazione importante che arriva nel mezzo di un'ondata di proteste guidata appunto dai giovani in diverse città marocchine, dove migliaia di persone sono scese in strada per chiedere i diritti fondamentali per l'assistenza sanitaria, le istruzioni e condizioni di vita dignitose. È una protesta nata ad Agadir, infatti, dopo che 8 donne sono nel corso di poco tempo morte in seguito a parto cesareo in ospedale per la mala sanità. Mancanza di strutture, di medici, si parla di una media di, proprio nella zona di Agadir, di 4 medici su 0,4 per 10.000 persone, quindi davvero insufficiente. Queste proteste sono estese poi in molte città e il culmine tragico, drammatico, è stato il 1 ottobre al Clia, dove 3 persone sono state uccise dalle forze dell'ordine. La versione ufficiale parla di legittima difesa durante un tentativo di assalto in una gendarmeria per impadronirsi di armi e munizioni e si è richiesta appunto una inchiesta per veramente individuare le dinamiche dei fatti. Comunque il bilancio degli scontri di questa settimana tra feriti e arresti su larga scala è stato aggiornato più volte dalle autorità. Si parla comunque di più di 400 arresti e più di 200 feriti. La Generazione Zero ha ovviamente il collettivo preso le distanze dagli incidenti dicendo che impegnandosi insomma in favore di proteste pacifiche e ribadendo che queste proteste non sono atti di sfida, ma un invito a una riforma radicata proprio nei principi costituzionali del Marocco e inviando questo appello diretto al monarca che è visto ancora anche dai giovani come il garante supremo della giustizia e della stabilità al di là del governo, un po' come appunto la figura possiamo dire il nostro presidente. Nella lettera il gruppo si descrive come la gioventù del Marocco che porta un messaggio alla nazione e esprime la frustrazione tra un gap sempre più forte tra i diritti costituzionali e la difficoltà di una vita quotidiana che mostra quanto il paese proceda a due velocità. La ricchezza è concentrata su un 10% della popolazione. Proprio il primo ministro e la sua famiglia, il primo ministro Aziz Akhannouch, è considerato il simbolo di un'oligarchia in ascesa, uno dei primi 12 miliardari africani, leader del partito liberale RNI, che aveva promesso nel 2021, al momento dell'insediamento, 1 milione di posti di lavoro durante il quinquennio. I dati mostrano invece che la disoccupazione è ancora altissima, si parla del 36,7% di disoccupazione giovanile, tra cui il 19% tra i laureati e 19,4% tra le donne. Se si pensiamo che un quarto dei giovani tra i 15 e i 24 anni è fuori, quindi sia dalla scuola che dal lavoro, soprattutto nelle città dove si arriva al 48% e le paghe medie si fermano a 300 euro con affitti urbani come qui a Casablanca, che sono comunque molto alti, davvero si capisce la dimensione del problema. Tornando alla lettera, appunto abbiamo detto le richieste sono 8, riguardano le dimissioni dell'attuale governo, la richiesta di procedimenti giudiziari imparziali per le persone coinvolte in casi di corruzione su dei fondi pubblici, lo scioglimento dei partiti politici complici di questa corruzione, garanzie di uguaglianza e non discriminazione nell'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e opportunità di lavoro senza favoritismi e nepotismi, tutela della libertà di espressione e pacifica, rilascio dei detenuti legati alle proteste pacifiche, liberazione quindi tutti i prigionieri di coscienza, attivisti studenteschi e partecipanti alle rivolte passate, invocando l'articolo 23 che proibisce la detenzione arbitraria, e una sessione pubblica nazionale di rendicontizione presieduta dal re, in cui le prove della presunta corruzione e cattiva gestione del governo dovrebbero essere esaminate in modo trasparente. Si attende quindi la risposta del re Mohammed VI, che ne ricordiamo nel 2011 placò la primavera marocchina varando la nuova Costituzione. Dunque non dovrà tardare a rispondere perché non venga poi considerato complice di un sistema di capitalismo ormai di rendita e di clientele che ha allargato le fratture sociali e gli squilibri locali del territorio. Ricordiamo, insomma, è un vasto territorio con realtà molto diverse e a vantaggio tutto questo sistema di un'esigua elite che spunto si sta avvantaggiando di questo sviluppo. Quindi è tutto contro i discorsi ufficiali sulle intenzioni di condurre politiche di sviluppo equalitarie, come quando appunto c'era stata l'iniziativa nazionale per lo sviluppo umano varata nel 2005.